Dialogo 38. Raccontò un uomo di Musaina. Fu chiesto all'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la bengloria: o apostolo di Allah, qual è il dono più bello che l'uomo possa ricevere da Allah? Rispose: il buon comportamento.